vuoi giocare, giochiamo. Ti prendo per la mano, ti trascino e poi ti porto su. Se giusto è solo tra gli addetti a questi versi, sarà che ci ripensi, sarà che ci ripensi. Tu stai su, devi stare solo tu, dove tutti sono bravi ad imitare sti lamenti. Non ti riposi, no, non elemosino gli applausi da qui giù perché non faccio complimenti. Mi riguardo la mia vita su di un album, ho un lampo di gioia, la paranoia mi divora, non mi lascia scampo, mi lascia scalzo nei carboni di chi mi sta odiando. Mi sto fermando un attimo, starò pensando, ti sto imbrogliando, sto cercando di riprendermi. La razionalità non fa per me, non voglio arrendermi, ma la felicità non sta in questa città statica, si impiastra in ciò che vuoi mettere in pratica. Regalarti, darti tutto ciò che ho, lo so, risorgerò dal niente perché il niente ci accomuna. Eppure non riporterò su un bordo rosso nome che mi parla di pazienza per colmare una lacuna. Tutto ciò che avevo adesso è schiavo d'altre mani, oltre mari e mondi lontani sopra sti piani. Ma cadono a pezzi questi piani, sarà che non ho scelta del domani, quindi seguo sti richiami. Se vuoi giocare, giochiamo, ti prendo per la mano, ti trascino e poi ti porto su. Se giusto è solo tra gli addetti a questi versi, sarà che ci ripensi, sarà che ci ripensi. Tu stai su, devi stare solo tu, dove tutti sono bravi ad imitare sti lamenti. Non ti riposi, no, non elemosino gli applausi da qui giù perché non faccio complimenti. Panico dalla morte, sulle porte senza manico, navigo, dove arrivo arriverò già carico. Chi mi ricorda quel sorriso troppo sadico, sa di cosa stavo parlando se poi parlo rapido. Me ne vorrei fuggire via come tutti quanti, resto calpesto come gli elefanti. Ho fatto presto infatti a scappare da sti battiti, nessuno sostiene, conviene combatterli. Per ogni porta che si apre una si serra, chi si chiude dentro vorrebbe la pace eterna e lentamente si consuma come il fuoco dalla sua candela. Non rivela niente a nessuno, sta su sta terra. Anch'io ci sto da tempo, dentro me riempio il vuoto con un sample, solo con un sample. È tutto questo che mi tiene vivo dentro, anche quando ci penso e mi pento. Se vuoi giocare, giochiamo, ti prendo per la mano, ti trascino e poi ti porto su. Se giusto è solo tra gli addetti a questi versi, sarà che ci ripensi, sarà che ci ripensi. Tu stai su, devi stare solo tu, dove tutti sono bravi ad imitare sti lamenti. Non ti riposi, no, non elemosino gli applausi da qui giù perché non faccio complimenti. La verità mi stressa, mi rinchiude nella gabbia di chi pensa e c'è chi sta pure senza. Non ha lavato la coscienza, disconosce tutto, sin dall'appello perché non presenzia. Ruba una lacrima a chi non ti sta vicino, perché giri inversamente al destino. Ho allestito stanze di nebbia, erba di gebbia, gente di merda e non mi sono divertito. Tutto questo capita, c'è una testa rapida, qualcuno esagera e ti lapida la macchina. Ma con chi credi di parlare? Io non mi sottometto a questa merda perché ho timbro musicale. Giro da solo con le spalle scoperte, le palle piene sempre, continuamente, continuamente. Tutto quanto si discioglie, qualcosa si confonde ed infonde saette. Se vuoi giocare, giochiamo, ti prendo per la mano, ti trascino e poi ti porto su. Se giusto è solo tra gli addetti a questi versi, sarà che ci ripensi, sarà che ci ripensi. Tu stai su, devi stare solo tu, dove tutti sono bravi ad imitare sti lamenti. Non ti riposi, no, non elemosino gli applausi da qui giù perché non faccio complimenti.